date imponenti di discorsi del cazzo. Si innalzano minacciose destinate ad infrangersi su di me. Ci sono giorni in cui il fine giustifica i mezzi, come quando il sole si spegne indossando una camicia nera. E le foglie del triangolo rosso vanno capiti e contestualizzati. La violenza partigiana va spiegata e poi dimenticata. Il resto è solo balbuzie che fa il loro gioco. Abbassa la guardia e ti colpiranno più forte. Se rimuovi la tua storia, te la ruba quando può, la riscriverà. È la tragedia che si trasforma in farsa. Commozione per tutti, compresi i carnefici. Fino al punto in cui tutto è nero, compreso il rosso. E ogni violenza è condannata da entrambi i lati della barricata storica. Dimenticando che una parte era nel giusto e l'altra no. Memoria stentata da fiction televisiva, sciapa come il testo di Bella Ciao. Non è possibile la riconciliazione tra i figli della Resistenza e quelli della Repubblica di Salò. Non vedrete nessun abbraccio in extremis tra gli epigoni e le brigate nere di quelle partigiane. Non riuscirete ad annegare la storia italiana del Novecento nell'oceano di un buono così bene generale, di cui sinceramente non si sentiva la mancanza. Voi la chiamate memoria condivisa, ma questa è solo la comunione della dimenticanza. Andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.